in primo piano. Da Roma, Irene. Buongiorno Betta Fiorito, buongiorno. Quali sono i temi in primo piano oggi e chi è il tuo ospite, che hai sempre ospiti che ci presenti? Allora, abbiamo in studio, quindi i radioascoltatori sentiranno il fruscio dei giornali, Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Buongiorno Manuela. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Irene. E poi abbiamo vari temi, tra cui i soliti, purtroppo i migranti, abbiamo visto c'è stata una nuova strage, Irene, e poi anche invece quelle che sono le mosse del governo per la manovra economica che fra un po' deve presentare. Quindi insomma, temi un po' pesanti, poi con te almeno i radioascoltatori si divertiranno un po' di più. Beh, insomma, parleremo anche noi, guarda Betta, anche noi oggi abbiamo delle pagine piuttosto dolorose, pesanti, ma è importante affrontarle. Saluto te, Emanuela Perroni, e poi avremo anche, grazie al giornale Emanuela Perroni, cioè il Sole 24 Ore, una discussione un po' più leggera, se vogliamo, sulla scelta universitaria. Vi ascoltiamo, ciao, buona rassegna stampa. Ciao Irene, a fra poco. Allora, iniziamo subito con i titoli. Il Sole 24 Ore, il boom delle tasse locali punisce il centro-sud. Su una famiglia media, prelievo tra il 6 e l'8% del reddito. Migranti, Repubblica, la guerra della Lega ai Vescovi. La UE, faremo di più. Poi il Corriere della Sera, scusate, ho preso la stampa, Gentiloni alla Libia, intesa o l'Occidente dovrà intervenire, sempre il ministro degli esteri, c'è poco tempo, poi avremo un'altra Somalia a due passi. Il Corriere della Sera, le mosse italiane per fermare il caos in Libia. Poi altri argomenti su altri giornali che non sono i migranti, Mattarella smaschera gli sprechi di Napolitano, il titolo del giornale, Italia oggi, ecco il lato oscuro del fisco, capitali corsa al rimpatrio, il titolo del Messaggero, da Eurofan a Eurodelusi, il titolo dell'Unità oggi, il Fatto Quotidiano, invece quelli che la RAI dà alcuni consigli, da Proietti a Vespa, dall'Aventura ad Albertazzi, i 10 consigli non richiesti alla Maggioni e Campo dell'Orto. Il Foglio invece titola sul Serie A, addio austerity, bentornata Serie A, e la Gazzetta dello Sport su Kovacic. Giusto, non so come si pronuncia, scusate la mia ignoranza per il calcio, purtroppo devo confessarla, però insomma, intanto iniziamo invece da quello che sta succedendo su fronte migranti. Abbiamo visto c'è stato un fortissimo scontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e la CEI, no? Nunzio Galantino, che ha un po' spronato i politici verso il tema dell'accoglienza. E oggi quindi Manuela Salvini continua la sua battaglia, no? Dice che poi oltretutto, a parte i migranti, è anche idea di fermare il paese. C'è un'intervista a Repubblica, giusto? C'è un'intervista a Repubblica in cui è evidente che Salvini alza ancora il tiro. L'ha fatto già ieri sera in chiusura della storica festa della Lega in Val Camonica, perché diciamo che si è proprio lasciato andare e ha detto che i vescovi hanno rotto le palle, sì, cioè un linguaggio colorito, sì, come è il suo solito, ma soprattutto alza il tiro perché annuncia che in autunno bloccheranno l'Italia per 3 giorni. Su Repubblica, appunto, intervistato da Matteo Pucciarelli, dice che sarà più una serrata che uno sciopero, e che insieme ai sindaci e ai presidenti della regione leghisti stanno studiando anche il modo di rimandare il pagamento delle tasse. E qui è evidente la strategia un po' politica, no? Di cavalcare i temi tradizionali della Lega, quindi temi quindi contro l'immigrazione clandestina, contro Roma ladrona e lo Stato che vessa i cittadini, rilanciarli e proporsi anche, perché no, come il prossimo leader Governo. Alla guida del paese. Tant'è che il giornalista gli ha chiesto qual è il primo provvedimento che adotterebbe il governo Salvini. Salvini e lui risponde all'abolizione della legge Fornero. Insomma, siamo in un passaggio delicato. Ecco, diciamo che sempre in questa intervista c'è cioè un blocco di 3 giorni a novembre, dice Salvini, la serrata, con rinvio delle tasse, sciopero del fumo e del gioco, appello anche ai 5 Stelle, perché del fumo e del gioco? Perché ricordiamo, no, il monopolio di Stato sul fumo e il gioco. Vabbè, quindi certo, saranno 3 giorni comunque salutari per gli italiani, se qualcuno, se qualcuno seguirà questi consigli di Salvini, non fumare e non giocare per 3 giorni farà bene agli italiani. Nella stessa pagina bloccare però, un paese già abbastanza bloccato non tanto però sì, anche perché con le sigarette lo Stato sappiamo che cerca anche un attimo una sponda per evitare l'aumento delle tasse, no? Soffocati nella stiva, i morti saliti a 49 oggi in Sicilia, i superstiti, sempre nella stessa pagina di Repubblica, in cui c'è l'intervista a Salvini, dramma in Macedonia, dove da giorni migliaia danno l'assalto ai treni per l'Europa, ai confini con la Serbia, scene che rimandano al conflitto nella ex Jugoslavia. Ecco, quello che abbiamo visto quest'anno ad agosto, a parte questa invasione secondo la Lega, insomma questi arrivi purtroppo di disperati, Manuela, è stato anche che il fronte mediterraneo si è allargato, perché anche in Grecia cominciano ad arrivare dalla Siria, quindi non è solo un problema dell'Italia. No, assolutamente no, anzi ricordiamo quali sono le cifre, perché gli sbarchi in Europa quest'anno saranno, entro fine mese pare la stima parla di 250.000 sbarchi. Le rotte più battute si sono rivelate quella tra la Libia e l'Italia, quindi nel Mediterraneo, e quella tra la Turchia e le isole greche dell'Egeo per la Grecia, tant'è che la situazione a Kos sta diventando insostenibile. E gli sbarchi in Italia sono stati 102.000, in Grecia 135.000, e diciamolo, Italia e Grecia non sono i paesi dell'Eurozona in condizioni migliori, per cui emergenza si sta sommando a emergenza. È per questo che gli appelli affinché l'Europa intervenga in maniera più incisiva sono appelli fondati, secondo me. È chiaro che bisogna far qualcosa. Segnaliamo allora questa intervista di Francesca Paci a Gentiloni, a Paolo Gentiloni, quindi abbiamo 2 interviste contrapposte, una su Repubblica Salvini, l'altra sulla stampa Gentiloni, proprio su il dramma dei migranti. E lui proprio dice le stesse cifre che dicevi tu: quest'anno abbiamo avuto un record di arrivi, ma anche un record di salvataggi. E il messaggio della Chiesa, questo è il parere di Gentiloni, quindi completamente diverso rispetto a Salvini, il messaggio della Chiesa merita comunque rispetto. Naturalmente un governo deve gestire e regolare l'accoglienza e non può solo dire venite e sarete accolti, ma il nostro governo ha anche il dovere di contrastare chi spaccia paura e illusioni, paventando l'invasione che non c'è o promettendo la soluzione facile che non esiste. Maroni è stata al Viminale più di chiunque negli ultimi 20 anni, non ho visto miracoli, dice Gentiloni. L'immigrazione non è una catastrofe improvvisa, bensì un fenomeno che sarà permanente per i prossimi 10-15 anni. Ma la sfida va affrontata a viso aperto. L'immigrazione va gestita e regolata con i suoi rischi e le sue opportunità. Non possiamo cambiare la geografia né infangare la nostra storia di paese civile. Chi invoca una chiara identità di sinistra per il PD la cerchi su questo terreno, piuttosto che sulle preferenze o sul modo di eleggere i senatori. E questa è la bordatina di Gentiloni anche sulla sinistra, alla sinistra Dem, non solo a Salvini. Poi sempre sulla stampa, appunto, fermiamo 3 giorni il paese e mandiamo a casa Renzi, la sfida di Salvini al governo, migranti sul Messaggero, così il Viminale li trasferisce in Lombardia. E proprio la Lombardia, di Roberto Maroni, la seconda regione italiana che ospita il maggior numero di migranti nelle strutture governative. A febbraio ne ospitava solo il 9%, oggi è passata al 13% delle presenze. In cima alla classifica c'è ancora la Sicilia, al secondo il Lazio, mentre il Veneto di Luca Zaio dal 3% dell'inizio dell'anno è passato al 7%. Quindi insomma c'è stata anche questa contrapposizione in cui si diceva che i governatori della Lega non dovevano accogliere i migranti, e poi l'hanno dovuto fare perché il Viminale si è imposto. Cioè un tema molto di propaganda questo per la Lega anche. È un tema molto di propaganda. Segnalo che sul Corriere della Sera c'è un'anticipazione dell'intervento che Monsignor Galantino terrà domani a Pieve Tesino in provincia di Trento, in cui in realtà non rimangia quello che ha detto lunedì nel colloquio, che poi è stato definito confidenziale, pubblicato, e invita a rivedere il ruolo della politica come ordine supremo della carità. Riprende di nuovo l'attacco ai populismi, che definisce un crimine di lesa maestà di pochi capi spregiudicati davanti a un popolo che chiede di capire i passaggi complessi della storia. Diciamo che è la traduzione più morbida di quello che aveva detto lunedì. Ricordiamo, l'aveva parlato di piazzisti da quattro soldi che, pur di raccattare quattro voti, dicono cose straordinariamente insulse. E qui scusate, ho fatto un caos con il microfono, e qui segnaliamo due editoriali contrastanti anche qui. Quello di Leo Luca Orlando sull'Unità, che parla proprio di come i siciliani, no? Noi abbiamo visto, c'è stato anche ieri Enzo Bianco, il vescovo di Catania, che ha detto noi comunque li abbiamo accolti, come i siciliani stanno dando una prova veramente di umanità nei confronti di tutti quanti gli italiani. Intanto c'è una bellissima foto che ci ricorda la nostra immigrazione. Un tempo eravamo noi ammassato sulle carrette dei mari, i primi anni del Novecento, sui vecchi piroscafi e navi fatiscenti erano gli italiani a imbarcarsi per sfuggire alla fame e cercare un lavoro dall'altra parte dell'oceano. Un esodo che riguardò 7 milioni di persone e costò la vita a migliaia di migranti morti in mare come i disperati nel Mediterraneo. Leo Luca Orlando addirittura va giù abbastanza pesante. Sentiamo in tanti la vergogna di assistere ad un genocidio che 70 anni fa Primo Levi ha con forza denunciato e che oggi non ha il volto del nazifascismo, ma ha il volto di un'Unione Europea vittima di un'infezione latente, nascosta dietro egoismi sempre più criminogeni e criminali. Se questo un uomo denunciava Primo Levi, se questa Europa denunciamo noi, scrive Leo Luca Orlando, non c'è più tempo di trarre conforto dal comportamento generoso di quanti in mare soccorrono migliaia di migranti. Non è più tempo di ricordare la solidarietà e l'accoglienza esemplari delle comunità siciliane e la straordinaria collaborazione tra istituzioni e volontariato che si registra nei porti di Palermo, della Sicilia e di tante altre comunità e città del meridione. Non è più tempo di sottolineare che, a fronte di quasi 300.000 migranti che sono passati attraverso la Sicilia negli ultimi 20 mesi, non si è manifestato un solo significativo atto di razzismo e intolleranza. Insomma, un orgoglio siciliano che è importante anche sottolineare. Dall'altra parte, però, perché segnaliamo l'editoriale di Vittorio Feltri sul Giornale, che è di tono opposto. Buonismo da sacrestia, ma ci dica anche dove trovare soldi e spazio. Nunzio Galantino è un uomo che abbiamo imparato di recente. Al grande pubblico egli si è segnalato alcuni giorni or sono, avendo attaccato brutalmente sia il nostro governo sia i politici definiti piazzisti da bar contrari all'immigrazione incontrollata, per esempio Matteo Salvini e Beppe Grillo. Tutte opinioni sono lecite, anche quella di Galantino, ma pensiero nobile, cristiano, apprezzabile sotto il profilo umano. Il modo in cui è stato espresso, abbastanza volgare, non è invece altrettanto nobile, anzi assai scorretto, scrive Feltri. Direi irritante. Forse Monsignor Galantino dovrebbe ripassarsi il concordato ideato da Benito Mussolini e rinfrescato da Bettino Craxi, nel quale grosso modo è scritto che i preti hanno facoltà di predicare ciò che vogliono, ma non sono autorizzati a interferire nelle questioni di Stato italiano. Ma questo è solo un consiglio gratuito che diamo volentieri al vescovo senza la pretesa che lo ascolti. Ecco, Manuela, il fronte politico sottolinea questa dicotomia, cioè nel senso che c'è un'interferenza della Chiesa nello Stato, il momento che Nunzio Galantino dice che i politici sono appunto piazzisti da bar. Vogliamo veramente sostenere che in Italia non c'è mai stata l'interferenza della Chiesa nelle faccende dello Stato? No, però questa volta è di nuovo un'intromissione, quindi Salvini... Allora, io penso una cosa, penso che la cosa più rivoluzionaria su questa faccenda, come al solito, l'ha detto a Papa Francesco, ed è stato Papa Francesco a dare la stura a un intervento come quello di Monsignor Galantino, perché nelle settimane precedenti all'intervento di Galantino, Papa Francesco ha detto queste parole: respingere i migranti è un atto di guerra. guerra. Ma io lo ricordo perché è veramente una frase fortissima. Ce l'aveva naturalmente, ce l'aveva con i profughi respinti dal Myanmar, quindi dalla Birmania, ma era chiaro il riferimento a quello che accade nel Mediterraneo. Diamo la linea alla regia. In primo piano. E appunto problema, diciamo così, all'atere da questa storia dei migranti è il fatto che sono stati presi i killer della pizzeria, due concorrenti di Frank, il movente, traditi in affari. Brescia, arrestato un indiano e un pakistano. Hanno confessato, gli aveva ceduto il locale che non poteva stare aperto di notte e scoppia la rabbia anti-stranieri, questo sempre su Repubblica, ma il figlio frena la piazza, voglio giustizia, non vendetta. Le reazioni, il governatore Roberto Maroni: a casa loro questi assassini li avrebbero già messi al muro. Il questore, preoccupati dal clima di intolleranza. Ecco, queste vittime, ricordiamo Francesco Saramondi e la moglie Giovanna Ferrari, assassinati a Brescia, è stato finalmente svelato il dramma. Questo però, poi, il fatto che gli assassini siano due extracomunitari, Emanuela acuisce poi un certo razzismo. È chiaro, però ricordo un fatto di cronaca successo a Roma di recente, il gioielliere che è stato ucciso mentre era al suo lavoro nel quartiere Prati, in Via dei Gracchi, e lì a ucciderlo è stato un italiano. Come la mettiamo? Nel senso che non possiamo correre dietro a ogni evento tragico che accade per gridare allo insomma, per prendercela con gli stranieri, su via, non è più tempo, ecco. Allora, segnaliamo sempre questo problema del microfono quest'oggi, segnaliamo intanto sul Sole 24 Ore l'estate con il tuo amico Sole. Mercati, borsa, tassi Fed, Cina e crisi greca, come ci si deve confortare davanti a tutte queste incognite, e investimenti, le azioni, diversificare il portafoglio può aiutare a difendersi dagli shock negativi dei listini, e il boom delle tasse locali pulisce il centro-sud. Questo un po' la dice lunga certe volte, no? Sul populismo un po' filoleghista. Insomma, che cosa è successo, Manuela, e che cosa farà ora il governo Renzi? Sappiamo che si prepara una finanziaria, anzi una legge di stabilità, che poi la finanziaria non facile per Renzi, perché il PIL non ha premiato poi il governo Renzi. No, perché il PIL del secondo semestre del secondo semestre, lo ricordiamo, insomma, è stato la crescita è molto debole, perché è solo un più 0,2%. Tutti gli osservatori sono d'accordo sul fatto che non c'è vera ripresa, c'è al limite una timida ripartenza, perché ragioniamo, perché le tasse locali schiacciano il centro-sud? Perché in realtà questa è l'eredità di sforamenti nei bilanci locali derivanti soprattutto dalla spesa sanitaria, ma non solo, che sono stati ripianati attraverso i piani di rientro con l'aumento delle addizionali, per cui abbiamo il boom della pressione fiscale proprio nel Lazio e in Campania, che sono state le regioni con i deficit sanitari più alti, e una vessazione per regioni soprattutto la Campania, che non hanno una ricchezza tale da poter sostenere questo esborso, per cui è una vessazione sulle famiglie più povere d'Italia, diciamolo. E altra vessazione, perché tutti quanti in spiaggia, no? Quando si va in spiaggia in questo agosto, sembra finito, ma secondo me poi il tempo ritornerà a essere splendente in tutta Italia. La cosa che si domandano gli italiani: ma quando si abbassa la benzina? Perché con questo crollo del petrolio queste accise sono sempre alte? Perché il governo Renzi ha un po' di problemi di numeri. Allora, segnaliamo varie cose, tra cui: lavoro, verso la conferma del taglio dei contributi nel 2016, piano del governo per rendere strutturale la riduzione delle tasse alle imprese che assumono. Questo sulla Stampa. E ricordiamo, appunto, abbiamo detto i numeri della crescita, più 0,2%, la crescita del PIL dell'Italia del secondo trimestre, secondo i dati Istat, nei primi tre mesi del 2015 l'aumento era stato dello 0,3%, più 0,7% la stima elaborata dal governo sulla crescita del prodotto interno lordo dell'Italia per l'intero 2015, più 1,2% la previsione fatta da Palazzo Chigi sulla crescita del PIL del prossimo anno. Ma ci bacchetta l'Europa, perché dicono in Europa quello che noi sappiamo tutti, a proposito di tasse, visto che siamo in questo argomento, che l'aliquota sul costo del lavoro e sul capitale in Italia è molto più alta della media dell'Unione Europea, 42,8% contro 36,1%, 33% è l'aliquota media sulla contribuzione per i lavoratori dipendenti, ogni punto in meno costa fra i 2 e i 3 miliardi di euro, quindi il governo vorrebbe ridurre il famoso cuneo fiscale, che oramai è una chimera, ed è praticamente la differenza tra quello che il lavoratore percepisce e quello che poi paga l'impresa e paga anche il lavoratore di tasse. Abbiamo su questo un'intervista al sottosegretario, al viceministro dell'economia Enrico Morando, un'intervista sul Corriere della Sera. Lui parla appunto ovviamente della manovra, ammette la difficoltà e dice delle cose interessanti. La prima, che riguarda le imprese e i lavoratori, al collega che gli chiede se ci sarà di nuovo la decontribuzione sarà confermata, lui dice: siamo d'accordo che indietro non si torna, ma stabilizzare la misura, quindi renderla strutturale così com'è oggi, costerebbe troppo. L'idea del governo, che poi di cui abbiamo scritto anche noi nei giorni scorsi, è quella di un decalage, cioè di una riduzione graduale della decontribuzione, che premi però alcune settori, cioè l'occupazione femminile e il sud. Ecco, potrebbe essere che la decontribuzione per il prossimo anno si concentri esclusivamente nei settori più deboli, ecco. Allora, il PIL fiacco complica i piani del governo, in salita la manovra e il confronto con l'Unione Europea. Il più 0,7% per il 2015 era una stima prudenziale, ma ora sarà dura raggiungere anche quell'obiettivo. Scrive poi Repubblica: la legge di stabilità già viaggia verso i 25 miliardi di euro tra clausole di salvaguardia da scongiurare e promesso taglio delle tasse sulla prima casa. Questo Repubblica. Poi i conti dello Stato sul Corriere della Sera: la manovra da 25 miliardi dall'abolizione della TASI sulla prima casa al rinnovo dei contratti pubblici, il governo cerca le coperture, si parte dai tagli alla spesa per 10 miliardi. Allora, il governo sta studiando una manovra da almeno 25 miliardi di euro per il bilancio statale 2016. La manovra servirà in parte a disinnescare l'aumento dell'IVA e delle accise previste dalle vecchie clausole di salvaguardia dei conti pubblici e dall'altro a rilanciare il taglio delle tasse di circa 35 miliardi per i prossimi anni. Insomma, è una strada in salita, tant'è vero che oggi l'Unità, che è ovviamente il giornale del Partito Democratico, appunto lancia da Eurofan ad Eurodelusi, questo è il titolo, no? Sondaggio esclusivo: svanito negli anni della crisi il sogno degli Stati Uniti d'Europa, basta austerity, politiche solo monetarie, assenze di visione, vertice Renzi-Merkel. Merkel andrà all'Expo, non vogliamo un'Europa tedesca, la cancelliera ha accolto l'invito di Renzi, che l'accompagnerà oggi pomeriggio ai padiglioni di Milano, e sulla Grecia dice: non ci sentiamo isolati. Poi, sempre per segnalare e per parlare di tasse, ovviamente una voce controcorrente sul giornale, Poletti, il ministro dell'ottimismo che dà i numeri sbagliati. Pensioni, precari, occupati, perfino il presidente dell'Istat lo accusa di giocare con le statistiche. Lui tira dritto e celebra i flop del governo. Vabbè, è ovvio che il giornale è un organo di stampa che in questo momento sta all'opposizione, però è vero che c'è questo impasse del governo. Sì, in particolare sui dati, che poi è un tema di cui abbiamo parlato a lungo anche noi sul Sole. Sul tema dei dati c'è effettivamente un cortocircuito, ma semplicemente perché i dati, diciamo, l'effetto del Jobs Act si vede soprattutto finora nello spostamento dai contratti a tempo determinato ai contratti, e in particolare l'apprendistato, ai contratti a tempo indeterminato. Per cui quando noi diciamo aumentano i contratti a tempo indeterminato, in realtà non stiamo dicendo che aumentano i posti di lavoro, ma che c'è uno spostamento della tipologia contrattuale, e questo è chiaro che è stato utilizzato anche dal governo per dire: guardate che siamo sulla strada giusta. Voglio dire, che comunque un aumento dei contratti a tempo indeterminato è una buona notizia in ogni caso, anche se sono trasformazioni di vecchi contratti. Vorremmo vedere, è chiaro, che il lavoro riprenda. Neoassunti, il rilancio sugli sgravi, è il titolo della Stampa. Piano del governo per trovare i 2 miliardi che servono a confermare la misura nel 2016. Taglio triennale dei contributi per i nuovi assunti anche nel 2016 è quello su cui sta ragionando il governo. Un costo che si aggira sui 2 miliardi, per questo si procede con prudenza. L'obiettivo, soldi permettendo, è quello di rendere questa riduzione delle tasse strutturale per le imprese che assumono. E se il governo ha le prese con la caccia ai miliardi per la finanziaria, Taddei, responsabile economico del PD, in un'intervista alla Stampa mette l'accento sulla partita con Bruxelles. Con le riforme fatte per l'Italia ci sono margini per avere ulteriore flessibilità dall'Unione Europea. Ecco, questo è un po' quello che ha cercato il governo Renzi da sempre, no? Questo cavallo del Jobs Act che in pratica vorrebbe poi essere l'arma con cui si chiede uno sconto a Bruxelles e maggiore flessibilità. Non solo quella, è l'arma delle riforme in generale, perché Renzi sa bene che sul tema delle riforme si gioca la partita con l'Europa per ottenere margini e investirli nella crescita. Mattarella smaschera gli sprechi di Napolitano, questo è il titolo del giornale, no? Con l'ex presidente, 58 alloggi del Quirinale regalati ai funzionari, bollette incluse. Al Quirinale per decenni lo spreco è stata la regola, fino a Napolitano che ha confermato tutti i privilegi dei funzionari oltre che i suoi. Il tutto diventa evidente ora che il presidente Sergio Mattarella, senza fare granché tranne razionalizzare i costi, ha di fatto smascherato gli sperperi. 58 alloggi regalati ai dipendenti del Colle, concessi canoni vicino allo zero, con metà delle bollette pagate dal Quirinale. Mattarella ha varato una stretta che prevede la concessione dell'alloggio solo a chi davvero ne ha bisogno per ragioni di servizio e sarà vietato trasferirvi la residenza. Questo è un tema che viene ripreso anche dal Messaggero. Fra meno di 2 anni e mezzo, nel gennaio 2018, il Quirinale girerà alla collettività nazionale un patrimonio immobiliare di parecchi milioni di euro. Quarantina di appartamenti in pieno centro a Roma saranno infatti destinati ad uso pubblico e non saranno più a disposizione del Colle. Cosa significherà in concreto? Vendita, trasformazione in uffici pubblici, sedi culturali? È presto per dirlo. È possibile comunque che venga dismesso l'intero palazzo di San Felice a due passi dal Quirinale, sul quale pare svetti la suite imperiale di 800 metri quadri, un intero piano, secondo voci non confermati, riservata al segretario generale fin dai tempi dei Savoia. Insomma, abbiamo visto un presidente molto silenzioso, no? Che interviene pacatamente su varie cose, però non si intromette troppo nel dibattito magari parlamentare sulle riforme, però poi ha fatto una misura che era chiesta da molto tempo, anche che cavalcava l'onda grillina, i grillini denunciavano da tempo gli sprechi del Quirinale, e lui in pieno agosto ha deciso poi di tagliare, no? Nel suo stile un po' low profile. Tant'è vero che il Fatto Quotidiano, che poi è il giornale che ha diciamo reso pubblico questo provvedimento, titola oggi Mattarella meglio di Napolitano, ma sugli affitti restano i privilegi, e pubblica proprio una lettera dell'ufficio stampa del Quirinale che spiega qual è l'obiettivo del provvedimento, cioè ottenere dal 2018 la liberazione di molti immobili, come dicevi tu. I privilegi restano perché restano degli appartamenti, canoni vantaggiosi a 3,6 euro al metro quadro, insomma a Roma, nel centro di Roma, e però sicuramente Mattarella contro gli sprechi al Quirinale è stato veramente incisivo da quando si è insediato. Allora, un'ultima notizia prima di dare ancora la linea alla regia, sono i capitali corsa al rimpatrio, il titolo del Messaggero, perché il governo ha reso più conveniente l'operazione di rientro dei capitali dall'estero. Il costo della regolarizzazione sarà in pratica dimezzato. Secondo le previsioni, da qui a settembre, quando scadrà il termine per il rimpatrio dei fondi, ci sarà un'accelerazione delle domande. Il governo conta di incassare almeno 3 miliardi di euro di gettito extra. E poi riprende anche il fatto che Renzi incontrerà oggi all'Expo Angela Merkel. Insomma, abbiamo visto che c'è anche questa misura che Renzi, no, il cosiddetto scudo fiscale, che potrebbe far rientrare i capitali dall'estero. Diamo la linea alla regia. In primo piano. E segnaliamo sul Messaggero: divorzio breve, boom, la carica degli over 65. Allora, sempre più anziani che si dicono addio, rappresentano il 20% del totale. Con la nuova legge in aumento le coppie che decidono di chiudere il matrimonio. Dopo oltre 40 anni di normativa lenta e tante battaglie, l'entrata in vigore lo scorso 26 maggio della legge che velocizza le procedure per l'addio coniugale ha determinato un vero e proprio boom di richieste, come se gli italiani non stessero aspettando altro. E da tempo, fascicolo su fascicolo, il ritratto è quello di un'Italia matura che sembra sempre più stanca del legame coniugale. Se la maggior parte dei richiedenti entra nella fascia 44-54 anni, l'età media è 44 anni per lui, 41 per lei, spesso sposati da poco. A stupire è il picco di over 65 che decidono di dirsi addio, fino ad arrivare ai record, non eccezioni, degli over 80. Ecco, una nota che si dice appunto in questa polemica sui migranti è che c'è la paura di Palazzo Chigi che poi questa mossa dia poi il via, il là, Annunzio Garantino, anche per una battaglia d'autunno sulle unioni civili. Tu pensi che sarà così, Emanuela, oppure pensi che poi alla fine la Chiesa interviene sui migranti ma lascerà stare le unioni civili? Beh no, i temi come le unioni civili, ma in generale i temi bioetici, sono da sempre quelli su cui la Chiesa si sente autorizzata a intervenire, per cui sì che ci sarà battaglia, lo ha dimostrato anche il dibattito in commissione al Senato. È un tema molto delicato, il governo ha si è detto deciso ad andare avanti, Renzi ha più riprese sottolineato come entro l'anno vorrebbe che la legge andasse in porto. Ci sono molte resistenze, soprattutto per quanto riguarda l'equiparazione al matrimonio. Ecco qui un radioascoltatore. I radioascoltatori dicono: queste due giornaliste ridanciane, non stiamo ridendo su cose serie, avevamo riso un pochino sulla benzina perché oramai è una barzelletta, ci perdonino i radioascoltatori. E mi dicono anche: scudo fiscale, quello lo faceva Silvio, gli idoli da Fiorito. No, non ho assolutamente questo tipo di idoli, rassicuriamo i nostri radioascoltatori. Invece andiamo a parlare di quello che è il tema, quelli che la RAI, un altro tema, ed è l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Ora, il Fatto Quotidiano ha intervistato alcuni esponenti del mondo del giornalismo, del mondo della cultura, eccetera, per quello che sono i consigli. Allora, per esempio, Alessandro Gassman chiede che il pomeriggio torni ad essere strumento culturale. Poi Sabrina Ferilli dice: liberatevi dalla lottizzazione e riaprite al pensiero. Bibi Ballandi: abbiamo artisti al top e Fiorello mi ha detto che, insomma. Bruno Vespa: informare senza censurare e nei limiti del buonsenso. Federica Pellegrini: basta oscurare lo sport, non esiste soltanto il calcio. Giorgio Albertazzi: spazio all'immaginazione e che rientrino gli autori. Poi c'è Gigi Proietti che dice: mi chiedo se gli sketch di oggi diventeranno dei piccoli cult. Raccontare ai giovani l'evoluzione del nostro paese per Piero Angela. E invece Loris Mazzetti: idee, non format né fiction, e il ritorno degli epurati. Insomma, abbiamo visto già questo nuovo CDA, dà molta speranza, perché un giornale critico come il Fatto Quotidiano, no, apre a delle proposte serie. Quindi che cosa ci aspettiamo dalla RAI, firma Maggioni? Non credo che il Fatto riponga speranze dalla composizione del CDA. Sabrina Ferilli dice: liberatevi dalla lottizzazione e riaprite al pensiero. In realtà il CDA è il frutto della vecchia lottizzazione, il frutto della vecchia legge Gasparri, e non, da questo punto di vista non presenta particolari novità. Il tandem Maggioni Dall'Orto potrebbe invece almeno ravvivare i palinsesti, sempre che la riforma poi della RAI, anche delle news, vada in porto. Allora, segnaliamo che in edicola con il Sole 24 Ore da venerdì il anticiperà Franzen, in occasione dell'uscita del nuovo romanzo di Jonathan Franzen, Purity, che rappresenta l'evento letterario dell'anno. e che sarà nelle librerie americane il 1 settembre, ci sarà un anticipo, un lungo estratto del libro del nostro quotidiano, Il Sole 24 Ore. Beh, insomma, questa è una notizia. Sappiamo che anche un tema in questa stagione estiva è stato proprio quello lì, la polemica sulla letteratura, sugli editor, sulla letteratura alta, sulla letteratura bassa, mentre segnaliamo una bellissima inchiesta sul giornale di Nino Materi, Io nella rete di Scientology, prigioniere del test che ruba i segreti della personalità. Un nostro giornalista si è sottoposto all'esame usato dai dianetici per reclutare seguaci e ha scoperto come la setta riesce ad attirare i soggetti più deboli e influenzabili. Vabbè, questo è un tema, no? Che purtroppo riappare. Un'altra polemica un po' agostana, se così vogliamo dirlo, è dal fair play al cafone, la nobiltà perduta del tennis, tra liti, urla e insulti, con i tennisti che si danno del cornuto al rivale, l'altro si lamenta perché si fuma marijuana in TV, in tribuna, dentro e fuori dal campo, uno sport senza stile. Ecco, noi eravamo abituati, no? L'ultimo baluardo dello stile è crollato anche quello. È crollato anche quello, e va bene, pazienza, ci toccherà. L'importante è che giochino bene, però. Poi invece un problema di cronaca, tolto il figlio a Martina, il PM, fatelo adottare, la mamma disperata, Milano la polemica sul piccolo della coppia dell'acido, illegale di una vittima doveva pentirsi ora è tardi. Ricordiamo che l'agguato fu il 29 dicembre nella periferia milanese, il 22enne Barbini viene aggredito con l'acido al volto lanciato da una coppia che poi tenta la fuga. Gli arresti nel giro di poche ore finiscono in carcere per lesioni gravissime, il broker Alexander Bogtechter e la studentessa della Bocconi Martina Levato. I tentativi falliti già in passato e anche con la complicità di un bancario, la coppia dell'acido aveva tentato di punire anche altri ex fidanzati di Martina. La condanna, che vengono condannati tutti e due in primo grado a 14 anni con rito abbreviato e risarcimento di diversi milioni di euro per le vittime. Allora, adesso probabilmente questo bambino verrà dato in adozione. Segnaliamo anche un'intervista a Massimo Ammaniti, psichiatra di Maria Novella De Luca su Repubblica. E insomma, non si può fare altrimenti, mi sembra, no? Beh, sì, per una volta mi sembra che tutti i commentatori siano d'accordo. Segnalo Massimo Recalcati, sempre su Repubblica, che sottolinea come la psicanalisi insegni che in realtà l'evento della maternità è sempre un evento del desiderio e che il caso di Martina Levato e del suo partner dovrebbe già bastare ai sostenitori incalliti della cosiddetta famiglia naturale a comprendere che essere una coppia eterosessuale non è mai una condizione sufficiente per garantire una genitorialità sufficientemente buona. E quello che Recalcati mette in evidenza è che nella personalità di Martina Levato si agitavano fantasmi proprio relativi al desiderio di maternità, e sono tutti stati concordi nel considerarla pericolosa per suo figlio. È veramente una situazione borderline, straziante, perché potrebbe essere una punizione che aggrava la pena. Ecco, poi insomma, tu sei una madre di due figli, quindi sì, sai, parli anche con cognizione di causa, come tutte le madri. Allora, boom di divorzio, ci scrive Bruno. Non è vero che il motivo vada ricercato nella convivenza fiscale, nella convenienza fiscale del non essere sposati. Ecco, in realtà, ecco, forse Bruno ha centrato un tema, no? Se magari qualcuno non è, bisogna vedere un attimo quanto poi convenga o non convenga essere sposati o non sposati fiscalmente in questo stato in cui ci siamo trovati in Italia. Secondo me la legge sul divorzio breve era talmente attesa che ha veramente liberato migliaia di coppie dal dovere di rimanere insieme. No, anche perché era molto traumatizzante poi trovare per 3 anni, esatto, in tribunale, no? C'era anche un aspetto, sì, emotivo. Tant'è molto che profondo. È stata una legge bipartisan approvata da entrambi gli schieramenti. Acquazzoni, tornado e fulmini, due giorni di autunno in agosto, 14 feriti in Puglia, troppa pioggia, rimandato a oggi il palio di Siena. Poi invece, non troppo acquazzone, però un gruppo unico dei moderati alle Camere e la federazione centrista, le mosse di Alfano con gli altri non dem della maggioranza, una nuova margherita per garantire a Renzi la stabilità. Segnalo sul Foglio, a parte quella di austerity, però il Foglio ha ribattuto oggi una bellissima inchiesta che è stata già pubblicata da Vanity Fair, donne che mordono donne con denti di ferro, e questo praticamente stiamo parlando la brigata, la Gestapo femminile del Califfato, una storia veramente tragica. Allora, Irene Zerbini è a Milano. Sì, Milano, allora prendiamo la linea da Roma. Ciao, vi abbiamo seguito, grazie per questa rassegna stampa, ci ritroviamo domani, Betta. E noi ringraziamo Manuela Perrone del Sole 24 Ore che ci è venuta a trovare. Ciao Manuela, buon lavoro. Ciao Irene, anche a te, grazie di tutto. Noi partiremo proprio da un articolo del Sole 24 Ore a firma Max Bergami sulla scelta universitaria, che dice: è decisivo individuare le motivazioni. Lo firma dunque il direttore della Bologna Business School dell'Università di Bologna, da cui ci si aspetterebbe un invito sulla scelta universitaria che tiene conto delle possibilità occupazionali. Invece proprio è l'opposto. Il suo suggerimento è: attenzione, seguite le vostre inclinazioni, altrimenti studiare diventa un supplizio. Ma approfondiremo questo tema con lui, e intanto vi chiediamo: come va scelta la facoltà universitaria? Quali sono le motivazioni che devono motivare l'iscrizione? È più lo sbocco o più seguire la propria inclinazione? Ne parleremo dalle 9 in poi. Prima invece alle 8:30, insieme a Peppe Dell'Acqua, tra gli altri ospiti, lo psichiatra Peppe Dell'Acqua è stato per molti anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, dunque ha cominciato a lavorare con Franco Basaglia nell'ospedale psichiatrico di Trieste, ha partecipato al cambiamento, alla chiusura del manicomio, e con lui parleremo di TSO, dei dolore delle famiglie che sono coinvolte con provvedimenti di questo tipo e del dolore delle 600.000 famiglie che in Italia hanno tra loro un membro timbrato, etichettato come malato psichiatrico, e tutto è lasciato sulle loro spalle. Questo è il tema che affronteremo nella prima parte di Spunti di Vista dalle 8:30. I vostri sms al 349-238-6666 e le vostre telefonate all'800-24-0024. Ora il GR, poi torniamo insieme.